Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli e benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Partiamo da un appello oggi, un appello lanciato da Federica Mogherini. Bisogna evitare un nuovo massacro nel campo profughi di Yarmouk in Siria, dove la situazione è peggiorata, dice appunto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Insieme a lei il commissario alle crisi umanitarie Christos Stylianides, che a nome dell'Unione Europea chiedono a tutte le parti belligeranti e a quelle con un'influenza su di loro di rispettare e far rispettare il diritto internazionale, di assicurare l'accesso umanitario e fornire un passaggio sicuro a tutti i civili che desiderano scappare. Intanto invece il ministro degli esteri sudanese ha annunciato di avere convocato il rappresentante della missione europea a Khartoum per le critiche lanciate dal capo della diplomazia europea, appunto Federica Mogherini, sulle prossime elezioni in Sudan. Le elezioni non possono dare un risultato credibile e legittimo dell'intero paese, aveva detto ieri la Mogherini, aggiungendo che alcuni gruppi sono esclusi e i diritti civili e politici sono sistematicamente violati. Il ministero sudanese ha consegnato al rappresentante di Bruxelles una nota in cui lamenta la deliberata deformazione dei fatti in Sudan, così ha dichiarato il portavoce Ali Sadek all'agenzia France Press. Le elezioni presidenziali e legislative prendono il via lunedì in Sudan, appunto, per 3 giorni. Il presidente Omar el-Bashir, al potere da ormai 25 anni, è praticamente sicuro di vincere, mentre la maggioranza delle opposizioni boicotta lo scrutinio. E adesso invece la Grecia. I progressi compiuti da Atene restano insufficienti, ha affermato Manuel Valls, il premier francese, che pure solitamente viene annoverato tra i meno intransigenti nel braccio di ferro in corso tra Eurogruppo e Atene. La questione è semplice, ha detto Valls in un'intervista al quotidiano portoghese Diario Economico. Il governo greco deve definire rapidamente una lista di riforme più profonde per far sì che gli aiuti europei possano entrare in gioco regolarmente. Insomma, intanto ovviamente resta certo che le finanze pubbliche elleniche restano molto tirate. Sentiamo il servizio. Atene non ha chiesto aiuti finanziari, a dirlo è il presidente russo Vladimir Putin, che sottolinea come invece Mosca sia interessata ad investire in Grecia nel campo delle infrastrutture, dell'agricoltura e dell'energia. Vago ma non troppo il tema, introdotto dall'incontro avvenuto al Cremlino tra Tsipras e Putin. L'idea più importante, non detta, ma della quale si discute, è quella di trasformare la Grecia nel nuovo hub del gas russo per l'Europa sudorientale, agganciandola al Turkish Stream, il gasdotto russo-turco che sostituirà il South Stream bloccato dall'Unione Europea. Ovvio che questo tema, ventilato ma non troppo, pone la Grecia in una posizione particolare agli occhi di Bruxelles. I paesi europei non viaggiano tutti necessariamente nella stessa direzione o hanno tutti la stessa visione del mondo, quindi rispetto ad Atene non voglio andare oltre, speculare, commentare o qualcosa di simile, ha replicato però subito Margaritis Schinnas, portavoce della Commissione europea. Nessun commento dunque, ma è certo che l'Europa guarda con difficoltà l'apertura del Cremlino e la posizione della Grecia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questa edizione, per questa settimana. Naturalmente Europa 24 torna lunedì, sempre poco dopo le 14. Un saluto a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.